giochi, reinventando quelli noti come banchetto, creandoli da zero come il gioco dell'Orsetti. Ma il più interessante era Detective, la cui sola regola era cercare per terra oggetti, affascinati dal nuovo col coraggio a rischio di tetano. Quando gli uomini crescono i talenti si sprecano, solo in pochi superano pure vergogna. La maggior parte degli adulti gioca, si sfoga soltanto quando sogna. La competizione perde la sublimazione, diventa diretta cercando rogna. Molti soldi nonostante l'arte sia un gioco, io in media compongo e scrivo un universo da solo. Quindi l'aspetto collettivo l'ho perso e le regole ora le detto da solo. Ecco una possibile utilità che giustifica i featuring e le crew. Il primo beatbox che si vanta solo di essere il primo a vantarsi così poco. Puttana madonna, tana madonna, tana madonna, puttana madonna, puttana stu. Prate mi scel, io ti piscio in bocca, sì, in bocca, ti piscio in bocca, sì, fammi una pompa al cazzo, pompa al cazzo, eccoti, io non t'aspettavo, eccoti, io non t'aspettavo. Beatbox semantico. Progredite in questa nuova disciplina dell'hip hop. Sono stanco di questa quadruplicità delle discipline ipoppettare. Dovremmo cercare di espandere la nostra ricerca musicale, e come fece Kant, io non posso approfondire.